Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Appena finito di mangiare, Duroy, con la scusa che era stanco, si ritirò in camera sua e, affacciatosi alla finestra, si mise a contemplare la luna piena che, sospesa in cielo come il globo d'un enorme lume, gettava sui muri bianchi delle ville il suo chiarore arido e velato e cospargeva il mare di squame di luce, d'una luce mobile e dolce. Cercava mentalmente una scusa qualunque per andarsene al più presto, magari ricorrendo a qualche sotterfugio, inventando un telegramma, una chiamata di Voltaire. Ma l'indomani, come si svegliò, capì subito quanto fosse inattuabile ogni suo proposito di fuga. La signora Forestier avrebbe mangiato la foglia e così, per pusillanimità, lui avrebbe perso tutti i vantaggi venutigli dalla sua devozione. Pensò, è una bella scocciatura, ma pazienza. La vita non è sempre rose e fiori. E poi, mica dovrebbe andar troppo per le lunghe. Il cielo era azzurro, di quell'azzurro mediterraneo che colma il cuore di gioia. E Duroy scese fino al mare, pensando che per vedere Forestier ci sarebbe sempre stato tempo in giornata. Quando tornò per la colazione, il domestico gli disse: «Il signore ha già cercato di lei 2 o 3 volte, se vuol salire da lui». Salì. Forestier sembrava addormentato su una poltrona. Sua moglie leggeva, sdraiata sul divano. Il malato alzò il capo. Duroy domandò: «Beh, come va? Mi sembri in gamba stamani». L'altro mormorò: «Sì, va meglio. Ho ripreso un po' di forze. Sbrigati a far colazione con Madeleine. Andremo a fare un giro in carrozza». La giovane signora, come fu sola con Duroy, gli disse: «Oggi si crede fuori pericolo. È da stamani che fa progetti. Andremo fino al Golfo di Juan a comprare delle ceramiche per il nostro appartamento di Parigi. Vuole uscire a tutti i costi, ma ho una gran paura che gli succeda qualcosa. Non può tollerare le scosse della strada». Giunto il landò, Forestier scese facendo un gradino per volta, sorretto dal domestico. E appena scorse la carrozza, volle che si abbassassero i mantici. La moglie s'opponeva: «Ma prenderai freddo, è una pazzia!» «No», si ostinò lui, «sto meglio, lo sento bene». Giunsero davanti ad una specie di grande padiglione dove si leggeva «Ceramiche artistiche del Golfo di Juan», e la carrozza, dopo aver aggirato un praticello, si fermò davanti alla porta. Forestier voleva comprare 2 vasi da mettere sulla libreria. Poiché non gli era troppo agevole scendere, gli portarono a far vedere tutti i modelli l'uno dopo l'altro. Stette un bel po' a scegliere, consigliandosi con la moglie e con Duroy. «Sai, sono per il mobile in fondo allo studio. Dalla mia poltrona me lo vedo sempre davanti agli occhi. Vorrei una forma antica, una forma greca». Esaminava i campioni, se ne faceva portare degli altri, tornava ai primi. Alla fine si decise, pagò e ordinò che fosse fatta subito la spedizione. «Sarò a Parigi fra 3 giorni», disse. Tornarono, ma lungo il golfo li investì una corrente d'aria gelida, sbucata a un tratto dalla gola d'un valloncello, e l'infermo prese a tossire. Lì per lì parve una cosa da nulla, una crisi leggera, ma invece quella tossetta crebbe. Si trasformò in un accesso ininterrotto, poi in una specie di singulto, di rantolo. Forestier soffocava, e ogni volta che tentava di respirare, la tosse, scaturendo dalle profonde cavità del petto, gli squarciava la gola. Nulla valse a calmarla, a sedarla. Dovettero trasportarlo di peso dall'andò in camera, e Duroy, che lo reggeva per le gambe, sentiva gli schianti dell'insulto scuotergli i piedi ad ogni contrazione dei polmoni. Il calore del letto non placò l'accesso, che si protrasse fino a mezzanotte. Poi i narcotici finalmente sopirono gli spasmi mortali della tosse e il malato rimase fino all'alba con gli occhi aperti, seduto sul letto. La respirazione gli si fece così frequente, così faticosa, così dolorosa, che la signora Forestier, spaventata, fece svegliare Duroy coricatosi allora allora per pregarlo d'andare a chiamare il medico. Tornò quasi subito col dottor Gaveau, che prescrisse una pozione e diede qualche consiglio, dicendo però al giornalista che stava riaccompagnandolo per chiedergli il suo parere: «È l'agonia. Non arriverà domattina. Avverta la povera signora e mandi a chiamare un prete. Io la mia parte l'ho fatta. Comunque resto a vostra completa disposizione». Duroy fece chiamare la signora Forestier. «È in punto di morte. Il dottore consiglia di chiamare un prete. Che vuol fare?» Lei esitò a lungo. Poi, con voce lenta, dopo aver vagliato bene ogni cosa, rispose: «Sì, è meglio. Io vo a prepararlo. Gli dirò che il parroco vuole fargli una visita. Insomma, qualcosa inventerò. Sia così gentile d'andarmene a cercare uno di preti e me lo scelga a modo. Prenda un prete che non faccia troppo lo smorfioso, che si contenti della confessione e ci risparmi il resto». Il nostro giovanotto tornò con un vecchio sacerdote compiacente che si prestava volentieri. Appena questi entrò nella camera dell'agonizzante, la signora Forestier uscì e andò a sedersi con Duroy nella stanza attigua. Il domestico venne ad avvertirli che il reverendo aveva finito ed essi risalirono insieme. Forestier sembrava ancora più magro del giorno prima. Il prete gli teneva una mano. «Arrivederci, figliolo. Tornerò domattina». E se n'andò. Appena fu uscito, il moribondo che ansimava cercò di sollevare le mani verso la moglie e barbugliò: «Salvami, salvami, cara. Non voglio morire, non voglio morire. Salvami. Ditemi che devo fare. Chiamate il dottore. Prenderò tutto quel che vorrà. Non voglio, non voglio». Piangeva. Grosse lacrime gli solcavano le guance smunte e la bocca affilata gli si piegava agli angoli come quella dei bambini crucciati. Abbandonate le mani sul letto, cominciò a muoverle come per cercare qualcosa sulle lenzuola, un moto continuo, lento, monotono. La moglie, che s'era messa a piangere anche lei, balbettò: «Ma no, non è nulla. È una crisi passeggera. Domani starei meglio. Ti sei strapazzato con quella passeggiata di ieri». Il tempo passava. Suonò mezzogiorno all'orologio d'un convento vicino. Duroy uscì di camera per andare a mangiare un boccone. Tornò un'ora dopo. La signora Forestier non volle prender nulla. Il malato non s'era mosso. Continuava a raspar con le dita ossute sul lenzuolo come per tirarselo sul volto. La giovane signora era seduta su una poltrona ai piedi del letto. Duroy ne occupò un'altra accanto a lei e attesero in silenzio. Era venuta un'infermiera mandata dal medico. Stava sonnecchiando vicino alla finestra. Anche Duroy cominciava ad appisolarsi quando ebbe l'impressione che qualcosa stesse accadendo. Aprì gli occhi appena in tempo per veder Forestier chiudere i suoi come due lumi che si spengono. Un lieve rantolo scosse la gola del moribondo e due fili di sangue apparvero ai lati della bocca, poi gli colarono giù sulla camicia. Non respirava più. La moglie comprese e, gettando un grido, cadde in ginocchio singhiozzando sul lenzuolo. Georges, sorpreso e sgomento, si fece macchinalmente il segno della croce. L'infermiera, svegliatasi, s'avvicinò al letto e disse: «È andato». Passato il primo istante di smarrimento e versate le prime lacrime, s'occuparono di tutte le faccende, di tutte le pratiche che impone la morte d'una persona. Duroy corse di qua e di là fino a buio. Aveva una gran fame quando tornò. Anche la signora Forestier prese qualcosa. Poi si sistemarono entrambi nella camera del morto per vegliarlo. George, turbato dalla penombra, lì vicino al cadavere, lo fissava insistentemente. Attratto, affascinato da quel viso scarno, reso ancor più incavato dalla luce tremolante, non riusciva a distogliere gli occhi e la mente. Eccolo lì, il suo amico Charles Forestier, che ancora ieri gli parlava. Che strana e spaventosa cosa la fine totale d'un essere umano. Oh, come se le ricordava bene adesso le parole di Norbert de Varenne, ossessionato dalla paura della morte. Nessuno ritorna. Mai. Volse altrove lo sguardo per non vedere il cadavere. Anche la signora Forestier, a capo chino, sembrava immersa in dolorose riflessioni. I suoi capelli biondi erano così belli sul volto triste che una sensazione dolce come la carezza d'una speranza sfiorò il cuore del nostro giovanotto. Perché desolarsi quando aveva ancora tanti anni davanti a sé? Si mise a contemplarla. Lei non lo vedeva, perduta nei suoi pensieri. George si diceva, eppure c'è una cosa bella nella vita, l'amore. Tener fra le braccia la donna amata è il non plus ultra della felicità umana. Com'era stato fortunato quel morto ad imbattersi in una compagna così intelligente e bella? Come s'erano conosciuti? Come mai aveva consentito lei a sposare quel giovane mediocre e povero? Com'era riuscita a farlo diventare qualcuno? Pensò a tutti i misteri celati in ogni vita. Ricordò quel che si mormorava del conte de Vaudrec, che dicevano le aveva dato una dote e un marito. Che avrebbe fatto costei adesso? Il silenzio nella stanza era profondo. Si sentiva soltanto sul caminetto il tic-tac metallico irregolare della pendola. Duroy mormorò, deve essere molto stanca. Più che stanca, rispose, mi sento molto abbattuta. Le loro voci lì sorpresero. Suonavano strane in quel lugubre ambiente. Entrambi posarono subito gli occhi sul volto del defunto, quasi s'aspettassero di vederlo muoversi, di sentirlo parlare, così come aveva fatto fino a poche ore prima. Duroy riprese. «È un bel colpo per lei. Dovrà mutar vita radicalmente. Un vero sconquasso. Per il suo cuore e per la sua intera esistenza». Lei trasse un lungo sospiro senza rispondere. Lui soggiunse: «È triste per una donna giovane trovarsi tutta un tratto così sola». Poi tacque. Lei non disse nulla. George balbettò: «Comunque, sa il nostro patto. Può disporre di me come meglio crede. Sono a sua completa disposizione». Lei gli tese la mano, avvolgendolo in uno di quegli sguardi mesti e dolci che scombussolano fino nel midollo delle ossa. «Grazie. Lei è generoso. Ammirevole. Se ne avessi il coraggio e se potessi fare qualcosa in suo favore, anch'io le direi, conti su di me». Duroy aveva preso la mano che gli era stata porta e la teneva stretta con una gran voglia di baciarla. Infine si risolse e, avvicinatala lentamente alla bocca, indugiò a lungo con le labbra sulla pelle fina, calda, febbricitante e profumata. Poi, quando gli parve che tale effusione d'affettuosa amicizia stesse prolungandosi un po' troppo, seppe lasciare a tempo quell'esile manina che mollemente ricadde sulle ginocchia della giovane signora. Costei disse pensierosa: «Sì, mi troverò molto sola, ma cercherò di farmi animo». Duroy mormorò allora a bassa voce: «Mi stia bene a sentire e cerchi di capir quel che vorrei dirle. Soprattutto non s'offenda se le parlo di queste cose in un momento simile, ma domani dovrò lasciarla e quando lei sarà tornata a Parigi forse sarà troppo tardi. Ecco, io non sono che un povero diavolo squattrinato e che deve ancora farsi, lei lo sa, una posizione. Ma ho buona volontà, una certa intelligenza, almeno credo, e sono sulla buona strada. Con un uomo già arrivato si sa dove si casca, ma con uno che comincia si ignora dove questi andrà a finire. Tanto peggio, o tanto meglio, chissà. Insomma, una volta le dissi a casa sua che il mio più bel sogno sarebbe quello di sposare una donna come lei. Le ripeto oggi quel mio desiderio. Non mi risponda nulla, mi lasci continuare. Non le sto facendo una richiesta. Il luogo e il momento la renderebbero odiosa. Voglio soltanto che lei non ignori che potrebbe farmi felice con una parola, che lei può far di me un amico fraterno come anche un marito, a suo piacimento. Non voglio una risposta adesso, anzi, voglio che qui non se ne parli più. Quando ci rivedremo a Parigi, allora cercherà di farmi comprendere la sua decisione. Fino a quel momento, acqua in bocca. Intesi? Aveva fatto tutto questo discorso senza guardarla, come gettando le sue parole nel buio della notte davanti a sé. E lei pareva che non avesse udito nulla, rimasta immobile a guardar come lui nel vuoto, a fissar vagamente il pallido paesaggio sotto il plenilunio. Rimasero a lungo a fianco, gomito contro gomito, silenziosi e pensierosi. «Fa piuttosto freddo», mormorò infine lei, e, voltatasi, tornò presso il letto, seguita da lui. Andarono tutti e due a riposare fino alle 11. Poi misero Charles nella bara e si sentirono subito alleggeriti, rasserenati. Dalla finestra spalancata entrava il mite tepore della primavera, recando l'alito profumato del cespo di garofani fiorito davanti alla porta. La signora Forestier propose a Duroy di fare un giretto in giardino e presero a camminare piano piano intorno al praticello, aspirando voluttuosamente l'aria temperata, odorosa d'abeti e di eucalipti. D'un tratto lei prese a parlargli, senza voltarsi a guardarlo, così come aveva fatto lui su in camera durante la notte. «Mi ascolti, mio caro», disse pronunciando lentamente le parole a bassa voce, seria. «Ho già riflettuto molto sulla sua proposta e non voglio lasciarla partire senza averle risposto almeno una parola. Non le dirò d'altronde né un sì né un no. Aspetteremo, vedremo, ci conosceremo meglio. Se le parlo di questo adesso, ancor prima che il povero Charles sia disceso nella tomba, lo fo perché è necessario che lei, dopo quanto m'ha detto, sappia bene chi sono io e non accarezzi più a lungo l'idea che m'ha espresso se non si sente capace di capirmi e di sopportarmi. Mi comprenda bene. Il matrimonio per me non è una catena, ma un'associazione. Io intendo essere libera, pienamente libera delle mie azioni, delle mie iniziative, di uscire quando voglio, sempre. Non sopporterei né controlli, né gelosie, né discussioni sulla mia condotta. Mi impegnerei, questo è ovvio, a non compromettere mai il buon nome dell'uomo da me sposato, a non renderlo mai odioso o ridicolo, ma quest'uomo dovrebbe a sua volta impegnarsi a vedere in me una sua eguale, un'alleata, e non già un inferiore o una sposa obbediente sottomessa. Le mie idee, lo so, non sono quelle accettate da tutti, ma non potrei cambiarle. Non mi risponda nulla. Sarebbe inutile e intempestivo. Ci rivedremo e forse ne riparleremo più in là. Ora vada a far due passi. Io torno da lui. A stasera. Duroy le baciò a lungo la mano e se n'andò senza dire una parola. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.